Ebbene sì, orologi, se vi ricordate, certamente i miei biografi se lo ricorderanno, abbiamo già tempo addietro dedicato una puntata al tempo e quindi abbiamo sviscerato minuti, ore, anni, mesi, giorni, bla bla bla, ma questa puntata qui, sì, posso capire che effettivamente siamo un po' lì, non è che c'è tutta questa differenza, ma in realtà no, ci concentreremo soltanto sugli orologi, proprio l'oggetto in sé, vedremo vari tipi di orologi, cioè l'orologio a pendolo, l'orologio da polso, quelli a cui siamo legati per ragioni sentimentali, quelli che in un certo modo sono un simbolo di un episodio storico, insomma. Non pensavo, ma quando mi sono messa a cercare materiale su questo tema ho scoperto che l'orologio effettivamente è un tema molto trattato. Tra l'altro, ma anche più della luna, cioè la scorsa puntata ho trovato molta più difficoltà. Invece che vi devo dire? L'orologio piace. E quindi, come avrete riconosciuto, probabilmente il primo pezzo a farci da introduzione era Bill Haley con Rock Around the Clock, ovviamente, che è una canzone scritta nel 1952 da Max C. Friedman e James E. Myers ed è stata incisa nell'aprile del 54, due anni dopo, da Bill Haley and His Comets, appunto. Vabbè, famosissima, hit. Fra l'altro pare che raggiunse il vero e proprio successo quando, un anno dopo essere stata registrata nel 55, fu inserita nella colonna sonora del film Il seme della violenza. Un film che, se non ve lo ricordate, posso capire il perché, ma era un filmone molto popolare al tempo, insomma, che parlava della gioventù ribelle e dei teppisti. In particolare si parlava di un giovane insegnante malcapitato in una scuola di teppisti che lo tormentavano con mille angherie, lui poverino che doveva riuscire a venirne fuori. Nel 1956, ancora un anno dopo, per sfruttare la popolarità di questo brano, fu prodotto un altro film, Senza tregua il rock and roll, vabbè, è così che si deve fare. Questo è il titolo italiano, il titolo originale era più banalmente Rock Around the Clock, interpretato dallo stesso Haley, tra l'altro, che fra l'altro, io non so se ve lo ricordate, Bill Haley, vi consiglio di andarvelo a vedere, non è che proprio è il rocker di gioventù dannata, bello e maledetto come uno potrebbe pensare, proprio per niente, sembra un bancario, un impiegato delle poste, ma d'altra parte, oh, che si deve fare? E questo comunque non era il primo brano rock and roll registrato e tantomeno il primo successo di questo genere, però va detto che questo pezzo piacque moltissimo alla terribile gioventù ribelle degli anni 50 e forse d'altra parte proprio per questo è passato ai posteri per essere un po' il brano che più di altri ha fatto irrompere il rock and roll nella cultura mainstream, perlomeno in quella popolare più di strada. Probabilmente non era proprio questo il pezzo che i veri teppisti amavano di più, ma andrebbe indagato, insomma. E continuando sempre su questa traccia, lasciamo un po' indietro il rock and roll, i padri, i fondatori del rock and roll, e andiamo più sul blues, perché il prossimo pezzo che ci andiamo a sentire è My Grandfather's Clock, che in realtà noi ci andiamo a ascoltare in un adattamento strumentale dell'originale di John Fay dall'album Days Has Gone By del 1967, adattamento strumentale appunto del pezzo, il brano originale del 1876 di Henry Clay Work. Questo brano che in realtà era molto molto famoso all'epoca e poi lo è stato anche per decenni, è stato reinterpretato da moltissimi: Betty Johnson, Johnny Cash, Sam Cooke, The Everly Brothers e 2000 altri. Prima di tutto però era uno standard per le bande musicali del Regno Unito, in particolare per le Colliery Bands, ovvero le bande delle miniere di carbone. la maggior parte delle fonti attribuiscono l'origine di questa canzone a una locanda di Pierce Bridge chiamata George Hotel. Questo albergo c'era, vabbè, era gestito e anche erano i proprietari e due fratelli di nome Jenkins, e nella hall c'era questo orologio a pendolo, un banalissimo orologio a pendolo. E dice che finché tutto andava bene, questo orologio segnava il tempo perfettamente, non dava problemi. A un certo punto uno dei due fratelli morì e a quel punto l'orologio cominciò a restare indietro sempre di più, nonostante tutti i tentativi di ripararlo, e chiamavano orologiai, tecnici, un po' tutti, nessuno riusciva a ripararlo e questo orologio piano piano restava sempre più indietro. Quando morì l'altro fratello, l'orologio si fermò del tutto e non si rimise mai più in moto, non ripartì mai più. E si dice che nel 1875 Henry Clay Work, l'autore appunto di questo brano, si fosse recato in questo albergo e gli avessero raccontato questa storia. La trovò talmente affascinante da scriverci questo Grandfather's Clock. Tra l'altro pare che in realtà proprio per questa canzone, che poi di fatto è diventata proprio una canzone popolarissima, pare che proprio per questa canzone in inglese si dice Grandfather Clock, l'orologio a pendolo viene chiamato Grandfather Clock, invece del nome più appropriato, che sarebbe Long Case Clock. E vabbè, non ne so molto di più di voi, questo è quanto, e questa è My Grandfather's Clock di John Fay. Diddley, questo era Bo Diddley, anche se sembra strano, ma sì, era proprio lui. E un pezzo del 1959, Clock Strikes 12. Tra l'altro, qui Bo Diddley suona il violino con l'archetto, oppure pizzicandolo e quant'altro. Eh sì, così, buffo, ma era proprio così. E allora proseguiamo con Words and Girlfriend. Il brano è Grandfather's Clock Heart. L'album è Enchanted Escape Escape del 2002. E Words and Girlfriend è il progetto solista di Katsuhiko Maeda. Chissà se si dice così in giapponese, non lo so, non lo potremmo mai sapere. E almeno non io. E è un compositore giapponese nato a Nagasaki, e prendendo spunto da lui, anche perché penso proprio che sarebbe d'accordo in realtà, vi parlo di Nagasaki e del suo orologio, e ve ne parlo almeno inizialmente con le parole di Roberto Fieschi, che è membro del Consiglio dell'Unione Scienziati per il Disarmo. 2 agosto 1945, a Tinian erano arrivati i componenti di Fat Man da assemblare. Fat Man è una bomba molto diversa da Little Boy, quella usata su Hiroshima. L'esplosivo è plutonio anziché uranio-235. Il meccanismo di innesco è più complicato, tanto che gli scienziati di Los Alamos ritennero necessario sperimentarne un prototipo, The Gadget. La potenza esplosiva è quasi doppia, 22 chilotoni. È il prototipo di tutte le bombe che verranno fabbricate nei decenni successivi. Il lancio di Fat Man era previsto per l'11 agosto. L'obiettivo prioritario era Kokura, la città con i più grandi impianti di munizioni. Nagasaki era l'obiettivo di riserva. Il 7 agosto viene deciso di anticipare il lancio di Fat Man al 9 agosto, anche a causa delle previsioni dell'avvicinarsi di un tifone. La giustificazione di questo immediato secondo lancio era di forzare i giapponesi alla resa, dando l'impressione che molte altre bombe atomiche fossero disponibili. Vabbè, qui ci sarebbe da farsi delle grasse risate se non fosse così drammatica la cosa. 8 agosto, un giovane ingegnere nucleare, Bernard O'Keefe, sta sistemando il nocciolo dentro la bomba. Prova a inserire il cavo che innesca l'esplosione nella presa, ma si accorge con angoscia che non è possibile perché ambedue le connessioni sono femmine. Scopre che all'altro estremo del cavo la spina è saldata scorrettamente con un'altra spina. Cerca un saldatore e riesce a sistemare le connessioni. Ora Fat Man è pronto e alle 22 viene caricato sul B-29 chiamato Boxcar. O'Keefe è esausto. Per poter ospitare la grossa bomba e per ridurre il peso dell'aereo, tutte le armi di bordo sono state tolte, ciononostante l'aereo stenta a decollare. 9 agosto, 2:15. Al momento della partenza si scopre che la pompa di uno dei tank del carburante di riserva non funziona. Si parte comunque alle 3:47. Poco dopo partono anche gli aerei The Great Artist e Big Stink. Un'ora prima erano partiti due aerei che devono controllare le condizioni del tempo, Enola Gay e Langing Dragon. Alle 7, Philip Barnes, l'assistente di Ashworth, spaventato, sveglia il suo capo che si era addormentato. C'è qualcosa che non va, una spia rossa lampeggia, come se la bomba dovesse esplodere. Burns e Ashworth consultarono le istruzioni tecniche, iniziarono i controlli e scoprirono che due interruttori erano stati invertiti nel procedimento per armare l'ordigno. Sistemati nella loro posizione corretta, l'allarme cessa e Ashworth torna a dormire. Ore 9:10. Boxcar, l'aereo con la bomba, sale a 30.000 piedi, raggiunge il punto di rendezvous, vede l'aereo di Great Artist, ma non vede il terzo aereo, Big Stink. Il comandante Sweeney, in contrasto con Ashworth, che vorrebbe procedere, e contravvenendo agli ordini ricevuti da Tibbets, gira lentamente sull'isola di Yakushima per ben 45 minuti, così si spreca prezioso carburante mettendo a rischio il viaggio di ritorno. Big Stink intanto stava volando a 39.000 piedi cercando invano gli altri due velivoli. Ore 10:44, Boxcar arriva sopra Kokura, l'obiettivo prestabilito, ma la visibilità è insufficiente. Dopo alcuni voli di attesa intorno alla città, la contraerea e i caccia giapponesi costringono gli aerei ad allontanarsi. Si decide allora di dirigersi verso l'obiettivo di riserva, Nagasaki, 95 miglia a sud, dove i due aerei arrivano un'ora dopo. Alle 11.02 viene sganciata la bomba. Nagasaki era una città collinosa su una baia pittoresca, era famosa perché vi era stata ambientata l'opera Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Ospitava i grandi impianti militari Mitsubishi sul fiume Urakami. Quasi la metà della città è distrutta, anche se la struttura collinare riduce i danni. Come Hiroshima, la situazione è drammatica e caotica. Moltissimi ospedali sono distrutti ed è impossibile curare i feriti. Case, chiese, scuole sono scomparse. I teletrasporti non esistono più. Il numero di morti è incerto, tra 60.000 e 80.000 persone. Aggiungo io che si sa che in pochi secondi ne morirono 40.000, molte altre morirono subito dopo o nei giorni e mesi a venire. A queste si devono aggiungere poi tutte le persone che negli anni successivi si sono scoperte ammalate di leucemia a causa della ricaduta radioattiva alla quale vennero esposti. Nel museo della bomba atomica di Nagasaki oggi c'è, e da molti decenni, c'è un orologio. È storto, è un po' squagliato da un lato ed è fermo alle 11.02. Il tempo si è fermato a Nagasaki. Thank you. Grandfather Clock Hurt del gruppo che poi dietro al quale in realtà ci sta un singolo, il progetto è intitolato Words and a Girlfriend. E il Bulletin of Atomic Scientist, oddio che parola difficile, rivista nata grazie all'opera di alcuni dei fisici che lavorarono al progetto Manhattan. Non so se ve lo ricordate, il progetto Manhattan era il progetto messo in piedi dagli Stati Uniti per fabbricare gli ordigni nucleari, progetto che effettivamente raggiunse lo scopo, come abbiamo già detto prima, insomma comunque lo sappiamo un po' tutti, e i vari fisici di questo progetto in realtà furono sia al momento dell'utilizzo di questa bomba sia poi soprattutto dopo molto critici e molto si potrebbe dire vabbè, potevate un po' pensarci prima, ma è andata così. In ogni caso molto complessa fu la vicenda e loro un po' la mandarono a dire che non sarebbe stata una buona idea, e soprattutto lo dissero dopo, dilaniati dai sensi di colpa. E dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale pubblicarono questi fisici del progetto Manhattan un primo dossier, questo bulletin di cui parlavamo prima, sui rischi di una catastrofe atomica che avrebbe potuto mettere fine alla specie umana. Parlavano, insomma, perché sapevano di cosa stavano parlando, ecco. E 2 anni più tardi, con l'esplosione dei primi ordigni nucleari sovietici e l'eventualità di un'escalation nucleare nel confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il Bulletin aggiunse al suo consueto dossier l'orologio dell'Apocalisse. Era un orologio fissato a 7 minuti dalla mezzanotte, che era un po' il limite che loro avevano fissato come ultimo momento della storia umana, e rappresentava la vicinanza dell'umanità alla sua stessa distruzione. Un countdown essenzialmente, un conto alla rovescia. Durante la Guerra Fredda, ovviamente, il Bulletin spostò la lancetta dei minuti più volte, avvicinandola o allontanandola in base alla gravità della situazione, almeno la gravità che loro percepivano. E dopo aver toccato i -2 minuti. Toccarono in -2 minuti nel 1953 con l'avvento delle prime bombe a idrogeno, e a quel punto il tempo che ancora restava dalla distruzione definitiva iniziò tendenzialmente a aumentare, come se, insomma, più o meno le cose si stessero un po' rappacificando. E nel 1991 si toccò -17 minuti con lo scioglimento dell'Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda. Questo almeno è come la percepivano loro, fisici del progetto Manhattan. L'orologio all'epoca influenzò profondamente l'immaginario paranoico e americano. Paranoico, beh, direi che ha ragione, ecco. Ossessionato, fra l'altro, l'immaginare dall'apocalisse nucleare, apocalisse nucleare che diventò un po' il simbolo di quei 10 anni, e insomma, chi c'è stato se lo ricorda, chi ha vissuto in quegli anni sa bene di cosa stiamo parlando. E, tra l'altro, tra le varie opere musicali, di film, libri, qualsiasi stampo che sono state influenzate da questo orologio apocalittico, ci fu anche Watchmen, che se vi ricordate è la graphic novel di Alan Moore, bellissima, meravigliosa graphic novel, che forse qualcuno se lo ricorderà, ha in ogni anfratto della New York distopica che viene tratteggiata da Lamour, ha nascosto degli orologi che scandiscono un tempo che, via via che la storia va avanti, si avvicina sempre di più alla mezzanotte. E vabbè, in realtà chiaramente sia per i redattori del tempo sia per quelli di adesso, che nel frattempo sono diventati di più, non sono soltanto scienziati e fisici del progetto Manhattan, ma hanno accolto altri analisti politici e vari geopolitici e quant'altro. Per loro, per tutti loro, il rischio non è assolutamente finito con la fine della la cosiddetta fine della cosiddetta guerra fredda, e in realtà da circa 20 anni lo spettro che questo gruppo di ricercatori prende in analisi si è allargato parecchio, prendono in considerazione diversi altri aspetti che non sono più soltanto la guerra nucleare o l'esplosione di ordigni nucleari. Quindi prendono in esame tutta una serie di nuove cause che potenzialmente potrebbero scatenare la fine del mondo. E quindi, vabbè, da lì diciamo che nuovi scenari si sono aperti. E attualmente, se non mi sbaglio, avevo guardato ieri sera l'orologio dell'Apocalisse, direi che si è assestato intorno ai meno 3 minuti dalla mezzanotte. Pare che ci sia stata una bella impennata con l'elezione di Trump. Ma questo almeno è come la pensano loro, io vi riporto il loro pensiero. Questi invece sono gli Sparks con Beat the Clock. Sure. You gotta beat the clock. Mom just couldn't take no more. You gotta beat the clock. You gotta sì, ve l'ho sparata un po' nelle orecchie, mi rendo conto, ma d'altra parte a me gli Sparks piacciono un sacco e vabbè, cercherò di moderarmi in futuro. E l'album era Number One in Heaven del 1979, Sparks, che vi ho fatto già ascoltare un po' fino alla nausea, ma non è finita e ve li farò ascoltare ancora. Troverò comunque sempre delle scuse per farveli ascoltare. Eileen Burton con The Syncopated Clock è il prossimo pezzo del 1959, la versione che ci ascoltiamo, e in realtà è una cover dell'originale di Leroy Anderson del 1945. E Leroy Anderson compose questa canzone per parlare di un orologio che si muove con un ritmo sincopato. E boh, l'arrangiamento, la sezione ritmica di questo brano, lo sentirete, sono piuttosto bizzarri e abbastanza complessi. Il ritmo viene scandito dal suono di un orologio che si impone continuamente, tranne che nella piccola sezione di mezzo. Il pezzo è in quattro quarti, banali quattro quarti, ma all'inizio c'è un regolarissimo tic tac di un orologio che comincia con uno staccato dell'orchestra sul La, creando un senso di attesa che poi continua per tutto il pezzo. Alla sesta battuta c'è una nota che rimane sul secondo beat e si sentono due ticchetti sincopati e poi si ritorna al normale tic tac in quattro quarti. Via via che il pezzo va avanti, l'orologio aumenta i momenti di sincope, quindi finisce che tu che ascolti questo pezzo ti aspetti che continui la sincope, ti aspetti questa sincope, ma a volte questa non arriva, ti spiazza, e tutto ciò crea questo effetto comico e un po' sorprendente. There was a man like you and me, as simple as a man could ever be, and he was happy as a king, except for one peculiar thing. He had a clock that worked all right. It worked all right, but not exactly quite. Instead of going tick-tock-tick, the crazy clock went tock, tick, tock. The poor old man just raved and raved because nobody could say why his silly clock behaved that hickory dickory way. But now a famous man is he. He owns a public curiosity. From far and wide the people flock to hear the syncopated clock. Tick-a-tock, tick-a-tock, there's a zing in the swing of that clock. Tock-a-tick, tock-a-tick, don't you think it's a marvelous trick? Ting-a-ling, ting-a-ling, there's a song in the bong of that ring. Ling-a-ting, ling-a-ting, don't you think it's a wonderful thing? The experts came to hear and see, but none of them could solve the mystery. They called Professor Einstein too. He said, there's nothing I can do. But soon the fickle human race will find another freak to take its place. And one fine day the man will hock the poor old syncopated clock. Ecco, e non potevano ammettere i Beach Boys che hanno scritto un pezzo, beh non l'hanno scritto, l'hanno eseguito, un pezzo che si intitola Cuckoo Clock, l'orologio a cuckoo, dall'album Surfing Safari del 1962. Questo pezzo parla di una coppia di adolescenti che cercano disperatamente di stare un po' insieme e sul più bello tutte le volte vengono interrotti da un simpaticissimo orologio a cuckoo. Finisce che i due non ne possono più e lo fanno a pezzi dilaniandolo. E sentiamo, questi qui sono i Beach Boys, abbastanza riconoscibili direi. We knew it, tick-tock, had been late, tick-tock. We had no tick-tock time to wait, tick-tock. I went to tick-tock light the fireplace, tick-tock. I planned it tick-tock all this way, and tick-tock. I snuggled tick-tock close to her, tick-tock. Her heart began tick-tock to burn, tick-tock. I held my tick-tock breath, and then tick-tock I put my tick-tock arms around her, tick-tock. Vabbè, quanto spacca questo pezzo. Erano gli Anthrax, Got the Time, l'album è Persistence of Time del 1990 ed è tra l'altro una cover del brano di Joe Jackson, nel primo album che aveva pubblicato nel 1979, Look Sharp. E vabbè, ok, questo pezzo non è proprio precisamente incentrato sugli orologi, mi avete sgamato, è un po' più sul tempo che però ti ticchetta in testa come un orologio. Lo avrete sentito nel ritornello. E poi insomma, oh, d'altra parte era troppo bello per non metterlo e quindi ce l'ho infilato lo stesso. Il prossimo brano invece è degli Shellac ed è Watch Song. L'album è 1000 Hearts, pubblicato dalla Touch and Go Records. Ovviamente il titolo dell'album in realtà è un gioco di parole, perché si riferisce ai 1000 Hz o un kilohertz, insomma. La copertina interna rappresenta un oscilloscopio e invece nella versione in vinile e anche quella in CD c'ha come copertina un registratore a bobine, che fra l'altro loro utilizzavano veramente anche negli anni per registrare. Gli Shellac d'altra parte erano grandi fan delle registrazioni analogiche, un po' vintage, ecco, come personaggi non l'avremmo mai detto, e questa è Watch a Song. We'll be right back. sì, un pezzo un po' piagnone, mi rendo conto, siamo scivolati nella progressive con National Health, Clocks and Clouds. L'album era Missing Pieces del 1996, che contiene, come si intuisce dal titolo, brani inediti del periodo precedente a National Health. I National Health sono un gruppo inglese di rock progressivo, detto così, associato alla scena di Canterbury. E proseguiamo sempre su questa falsariga, un po' in omaggio ai due nostri Wombat DJ Prog 1 e Prog 56, che non ci deliziano più con le loro trasmissioni rovesciate e medagliose, anche se poi in realtà almeno Prog 53 in realtà si è riciclato in altre entusiasmanti e bellissime nuove trasmissioni. Prog 1 è sparito, che si deve fa? Anzi, se volete invocarlo di nuovo e insomma protestare per la sua assenza, per l'assenza di altri che ancora non si riaffacciano ai nostri microfoni, o per invocare che qualcuno che c'è venga mandato via, potete farlo scrivendo alla casella di posta posta@insiberia.net. E già che ci sono, vi ricordo anche il nostro sito, che è wombat.noblogs.org. In particolare vi sollecito ad andare a guardare la pagina del palinsesto sul sito del Wombat, perché ha subito un po' di rinvigorimenti e di cambiamenti nell'ultime settimane. Forse ve ne sarete accorti, forse no. In ogni caso, sulla pagina del palinsesto trovate tutte le cose a modino, le dirette, gli orari delle dirette, orari e giorni, ovviamente, anche le repliche e tutto quanto. Sopra a tutto le tre fasce delle repliche random, che sono durante tutta la notte, ovvero dalle 2 alle 4 e alle 6, e se non sbaglio quasi sempre pure alle 23. Ora non vorrei sbagliarmi, ma sì, molto spesso troverete una simpatica replica dei nostri programmi random anche dalle 23 in poi, quindi probabilmente anche a seguire di questa trasmissione. Questo è quanto, le cose pratiche ve le ho dette, burocratiche, e il prossimo pezzo, appunto, sempre sulle tinte un po' prog, perché, ma in realtà no, musicalmente per niente, devo dire, però si parla di Steven Wilson, che è un musicista inglese conosciuto peraltro per essere il fondatore e un po' il leader, diciamo così, dei Porcupine Tree. E questo album, The Raven That Refused to Sing and Other Stories, del 2013, è un album prodotto da Wilson stesso insieme a Alan Parsons, che lavorò con i Pink Floyd a The Dark Side of the Moon come tecnico del suono. E tutto questo album è tutto costruito su 6 brani che si basano su storie soprannaturali. Quindi sì, la progressive c'entra il giusto, giusto c'ho infilato i Pink Floyd per farcela entrare, e però c'entra sicuramente con gli orologi, perché il titolo del brano è Clock Song. Thank you. questo ticchettio di orologio ci fa ricordare che siamo quasi alla fine di questa puntata. Abbiamo ancora due brani in scaletta e però il brano, il penultimo brano, il prossimo, quello che vi sto per far ascoltare, è piuttosto divertente, ma ancora più interessante è parlare di chi lo esegue, di chi lo interpreta, ovvero Lina Horne. Lina Horne, io devo dire, confesso la mia ignoranza, non avevo la più pallida idea di chi fosse, e invece era un panzer di cui vale la pena assolutamente di raccontare. Afroamericana con origini europee e nativo americane, fu la prima diva di Hollywood, fu la prima diva nera che firmò un contratto con una major, appunto, una major cinematografica in particolare di Hollywood, e che raggiunse una fama anche internazionale oltretutto. Vinse numerosi Grammy Award, ma è stata anche una attivista politica e ha partecipato un bel po' alle battaglie per la difesa dei diritti civili, così venivano chiamati al tempo, e anche contro la discriminazione razziale, anch'essa come si chiamava al tempo. Nel 1947 si sposò a Parigi con l'arrangiatore e pianista bianco, peraltro, Lenny Highton, che era il, chiamiamolo, patron della MGM, la major discografica che era appena nata. E in realtà, a causa delle minacce razziste che la cantante riceveva regolarmente, il matrimonio con Lenny Highton fu tenuto segreto per 3 anni. Tra l'altro, molto spesso non la facevano manco suonare al sud, insomma, come abbiamo visto per numerosi altri musicisti, si citava qualche puntata fa Billie Holiday, e insomma non solo lei, era prassi che il tour andasse diversificato a seconda di dove si andava in America e negli Stati Uniti. In certi posti potevi suonare, in altri non era proprio il caso, perché ci andavi a tuo rischio e pericolo. Così successe anche per Lina Horne, e nel 1950 la MGM non le rinnovò il contratto, adducendo come motivo perché non solo era afroamericana, ma c'aveva anche altri problemi. Il motivo era che era amica di Paul Robeson e Webb Dubois, che erano dei personaggi radicali ben in vista e sott'occhio dal maccartismo dell'epoca. E tra l'altro lei non aveva fatto mistero delle sue posizioni molto critiche nei confronti dell'esercito americano per come venivano trattati i soldati afroamericani. E quindi, per forza di cose, si ritirò dalle scene per un bel po', non solo le scene discografiche ma anche quelle cinematografiche. E sì, Lina Horne in quel periodo si dedicò a apparizioni radiofoniche e concerti nei nightclub, ma in realtà era molto brava, molto apprezzata, e la sua fama continuava, per quanto potessero cercare di stopparla, ma continuava ad aumentare. Tornò al successo nel 1957 con Lina Horne at the Waldorf Astoria, che è un album dal vivo che vabbè, divenne ben presto il più venduto album di un'artista femminile nella storia della RCA. Negli anni 60 la cantante, diciamo che proseguì il suo impegno e anzi incrementò. Fu famosa la partecipazione a un bel po' di cortei, di manifestazioni, tra cui la marcia del 28 agosto 1963 a Washington, guidata da Martin Luther King. E fra l'altro anche dopo si partecipò al funerale di Martin Luther King, ovviamente sostenne le cause di Malcolm X e di Medgar Evers. Quindi, insomma, un personaggino interessante, Lina Horne, e ce la cogliamo l'occasione per ascoltarcela con Cuckoo in the Clock, ancora l'orologio a cuckoo, L'originale è di Johnny Mercer e Walter Donaldson del 1939, ma questa è la versione di Lina Horne. There they were, there they were. He was baby talking her, and the cuckoo in the club went cuckoo. Every 15 minutes he crew. Cuckoo, cuckoo, cuckoo. Be a pal, be a pal, said the fella to the gal, and the cuckoo in the club went cuckoo. I believe they're starting to woo, woo, woo, woo, woo, woo. They didn't know that everything they said was overheard. They didn't hear that little bird giving them the bird. So he said with a sigh, who's your little peachy pie? And the cuckoo in the clock went cuckoo. Though I'm just a little cuckoo, I'm not as cuckoo as you. Then he closed the door and withdrew. Bella e brava Lina Horne. Siamo in chiusura, ci lasciamo con un ultimo brano degli irlandesi Boomtown Rats in particolare. L'album è A Panic for a Troop, for the Troops del 1978, e il brano è Like Clockwork. Boomtown Rats decidono di chiamarsi così dal nome di una gang di bambini di cui parlava Woody Guthrie nella sua autobiografia, e già così insomma a me stanno simpatici. Erano belli secondo me i Boomtown Rats per pochi anni, poi no, poi tragedia. Poi Bob Geldof, che era il loro leader, divenne un po' il paladino del bene dell'Occidente, un imprenditore miliardario, confuso e patinato difensore dell'Africa e di Bush, così appunto un po' altalenante, amico di Bono. dei conservatori britannici, di tutto quell'odioso brodo che non so voi, ma io voglio assolutamente dimenticare. Quindi ricordiamoceli così invece, i Boomtown Rats, per le cose buone che ci hanno lasciato. Vaffanculo a Bon Geldof, e a voi invece auguro una buona notte, buona serata, e ci riascoltiamo sempre dai microfoni di Wombat Radio mercoledì prossimo, sempre intorno alle 21. Dopo di me un po' di bobina e poi presto, secondo me verso le 23, una cosa del genere, una replica random di una delle nostre trasmissioni. Quindi rimanete su Wombat Radio e o se no riascoltiamoci domani. Ciao ciao. My heart is beating all so fast. I feel the hours crashing. Now my mind beats time like clockwork. And I am thinking, sing like clockwork. She's down her way with the motion. She sees things clearly. Mm-hmm.